America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero, Memorial Day Weekend, il giorno del ricordo, il giorno del ricordo dei caduti americani. Dunque la copertina di oggi la voglio dedicare ai soldati americani, a coloro che hanno combattuto in tutte le guerre e che molto spesso, purtroppo, hanno compiuto l'estremo sacrificio. If everybody had a nose across the USA. Beach Boys, Surfing USA. Direi che la canzone più appropriata per celebrare questo Memorial Day Weekend, per cui c'è questa strana coincidenza: da una parte l'America onora la memoria dei caduti di tutte le guerre, dall'altra però si scatena con grandi barbecues, con grandi festeggiamenti un po' dappertutto, per esempio a Washington, dove appunto i Beach Boys si sono esibiti ieri sul prato del Campidoglio, dove c'è stato un grandissimo concerto con una gran quantità di altri cantanti, René Fleming per esempio, una cantante d'opera molto importante, oppure Trace Adkins, cantante di musica country, Alfie Bow, un tenore, Trent Hammond, un cantante, uno dei grandi cantanti pop americani, e poi naturalmente Beach Boys con chi? E anche col generale Colin Powell, che era lì a partecipare a queste celebrazioni in rappresentanza naturalmente delle forze armate americane. Ricordiamolo, Colin Powell è stato segretario di Stato, è stato ministro alla difesa, è stato anche un soldato, ha combattuto in Vietnam e dunque dal punto di vista simbolico la sua presenza non poteva essere più rappresentativa. Discount Tire is celebrating this Friday and Saturday with Memorial Day deals. Ecco, qui avete sentito questo stacco di pubblicità perché il Memorial Day è anche un fine settimana in cui ci sono delle vendite scontate. Inizia la stagione estiva, si chiudono le vecchie scorte di magazzino e dunque tutti si precipitano per partecipare, come succede anche per il Thanksgiving e con altre feste nazionali nel corso dell'anno, a un programma di sconti nei grandi magazzini. Ecco, come vi dicevo, Memorial Day è il giorno in cui l'America rende omaggio ai soldati americani caduti in tutte le guerre. La tradizione vuole che la bandiera degli Stati Uniti sia a mezz'asta dall'alba fino a mezzogiorno, dopodiché viene issata completamente per dimostrare la forza della patria, l'unità nazionale e sottolineare soprattutto che la morte dei soldati non è stata invano, perché il paese è ancora solido, cresce, va avanti, è florido. Ecco, in questa giornata molte persone naturalmente vanno in cimitero, vanno ai monumenti, una grandissima processione c'è stata a Washington ieri e oggi naturalmente. Barack Obama tra l'altro pronuncerà un discorso oggi nella capitale, più tardi ci sarà anche un minuto di silenzio in tutta la nazione alle 3 del pomeriggio ora americana. Come nasce? La storia parte dal Decoration Day, che era un evento che era stato organizzato per celebrare i caduti nella guerra civile americana. Parte nel 1868, quando il Grand Army of Republic, una organizzazione di veterani fondata in Decatur, Illinois, ha stabilito appunto che quello doveva essere il giorno per decorare con fiori le tombe dei soldati morti nella guerra civile. Poi successivamente, per unificare il paese, la festa è diventata una festa nazionale, una festa federale, e poi nel 1971, quindi in tempi piuttosto recenti, finalmente il Congresso decide che quella è la festa di tutti e non se ne parla più. Ci saranno oggi delle parate dappertutto, in tutto il paese, da Washington fino al più piccolo paesino della campagna americana. Infine Indianapolis, altro evento che è stato ieri, le 500 miglia di Indianapolis. La si corre sempre la domenica prima del Memorial Day. Siamo arrivati alla 100ª edizione con 33 piloti che hanno cercato di scrivere il loro nome in questa corsa leggendaria. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ho pensato che, visto che Trace Adkins si è esibito ieri sul palco al Campidoglio e un cantante di musica country, ho scelto una sua canzone molto classica da dedicare a tutti i caduti americani di tutte le guerre. E devo dire, noi in Italia dobbiamo essere grati a molti di questi ragazzi americani che ci hanno liberato dal fascismo e dal nazismo. Say a prayer for peace. for every fallen sun. Set my spirit free. Let me lay down my gun. Sweet Mother Mary, I'm so tired, but I can't come home till the last shot's fired. In June of 1944, I waited in the blood of Omaha's shores. 21 and scared to death, my heart pounding in my chest. I almost made the first seawall when my friends turned and saw me fall. I still smell the smoke, I can taste the mud as I lay there dying from a loss of blood. Say a prayer for peace for every fallen son. Say so tired, but I can't come home till the last shot's fired. I'm in the fields of Vietnam, the mountains of Afghanistan, and I'm still hoping, waiting, praying I did not die in vain. Say a prayer for peace for every fallen son. Set our spirits free. Let us lay down our guns. Sweet Mother Mary, we're so tired, but we can't come home till the last shot's fired. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.